Immagini che ti vengono in mente la tua vita, la tua infanzia, la tua famiglia, i tuoi amici, le prime ragazze, le prime sbronze, la droga, tutte queste cose te le ricordi per sempre, per sempre, per sempre. Simo X, Bad Boys and Is Right, Felix Mixtape, volume 2. Lo zaino pesante, l'ansia nello stomaco sale. Primo giorno di scuola andavo ancora all'asilo Ale. Ricordi nella mente, zio, ne abbiamo passate tante. Penso che in fondo passi ne hanno fatti queste gambe. Ricordo quanto odiavo fare i compiti e studiare. Adesso rimpiango quei tempi mentre vado a lavorare. Pure mio padre e mia madre me l'avevano sempre detto, ma io sempre di testa mia avevo sto gran difetto. Quando i genitori dicono da grande capirai, tu oltre a non capire pensi che non li capirai mai. Vai avanti con la prima cumpa, il talento a pallone, se stai con la testa a posto puoi diventare un campione, diceva l'allenatore mentre sogni il successo. Faccio un sorriso malinconico se penso a questo adesso, le prime fidanzate, i primi battiti di cuore, poi il primo dolore per una delusione d'amore. E quando andava bene una rissa eravamo tutti gasati. Ci sentivamo i capi e sognavamo una vita da re. Con 20.000 lire in tasca passavamo il weekend. Prime pieghe in motorino, prime scianche giù dai giovi. Le prime cadute ti rialzavi che eri in mezzo ai rovi. Se non ti muovi e non stai al passo del tempo che va, se non scegli bene le strade che la vita offrirà, rischi che si spezzerà quel filo che ti tiene in piedi. E cade a una velocità che tu nemmeno ci credi. Ma il tempo passa, il primo tiro ti cambia la testa. Devastato, non sai che da lì la tua vita è diversa. Sempre festa, gare con gli amici, a chi deve di più. Fra, ti sei reso per primo, quindi adesso paghi tu. Prime discoteche, tecno, primi viaggi nella mente. I tuoi sanno che dormivi da un amico, ovviamente. Avanti più non è come era prima. Ora con 10 euro in tasca non faccio manco benzina. Ma non sai quanto rimpiango quei bei tempi. Che bastava stare insieme ed eravamo contenti. Sempre con le tasche vuote, ma quello non ci importava. Perché imparavi a riempirtele crescendo per la strada. Notte brava, presa male se spunta il sole al mattino. Il giorno dopo a raccontarlo ridi come un cretino. Giù bicchieri di vino, brindiamo a quanto siamo uniti. Ora son meno le facce, son meno pure i sorrisi. Noi decisi portavamo avanti le nostre teorie. Troppe liti in casa, pa dice che ho brutte compagnie. Impara dai tuoi errori e sii sempre quello che sei. Ho imparato ma la maggior parte li rifarei. Forse perché son testardo, forse non lo so spiegare. Ma questi ricordi in testa non li voglio cancellare. Svaniscono, i ricordi ritornano.